Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati con questa nuova edizione della Rassegna Stampa Europea su Radio 24. È stata una settimana decisamente segnata dai temi economici, anche questa settimana li andremo a vedere, ma è stata segnata anche dall'esordio di Enrico Letta come premier nelle capitali europee e se ne è parlato anche sui giornali. Questo in sintesi il nostro sommario. Andiamo ora a vedere nel dettaglio come i giornali europei, la stampa europea ha parlato questa settimana di Europa, e partiamo proprio dal mini tour nelle capitali europee del premier Enrico Letta. Se ne è parlato sulla stampa europea, ne ha parlato il tedesco Die Zeit. Enrico Letta ha fatto tappa proprio in Germania come prima tappa, e Die Zeit ha definito Letta un brillante ragazzo che subentra all'allegro ammaliatore Berlusconi e al cortese professore Monti. Letta vuole instaurare un rapporto di fiducia con la cancelliera tedesca Merkel, dato che i rapporti con la Germania sono di importanza decisiva per il suo governo. Ha bisogno di una forte legittimità da tutti i partiti di tutta Europa, senza di essa infatti cadrebbe vittima dei capricci dei suoi partner di governo. Ha parlato di Letta anche Der Standard, che ha definito decisamente esagerata l'ipotesi di un'alleanza col presidente francese François Hollande per aspirare a un allentamento del patto di stabilità e degli obiettivi di bilancio. Questo ha scritto il quotidiano austriaco Der Standard, e ha parlato di questo esordio europeo di Enrico Letta anche il ABC, il quotidiano spagnolo conservatore ABC. Ha parlato di un pio pellegrinaggio, quello di Letta a Berlino, pellegrinaggio perché si tratta di un viaggio obbligato alla ricerca della salvezza, scrive ABC. Pio perché sembra che quasi che i leader europei si prostrino in ginocchio al cospetto di Angela Merkel. Dopo l'incontro con la cancelliera e la conferenza stampa che è seguita, Letta non è parso altrettanto fiero, anche perché la Merkel ha ripetuto lo slogan che l'Europa deve uscire dalla crisi più forte di quando è iniziata. E di Germania in realtà hanno parlato anche in altro senso i quotidiani e la stampa europea, la stampa settimanale europea. Vorrei portare l'attenzione sull'Economist, il settimanale The Economist. France and Germany, a tandem in trouble. Un tandem che ha dei problemi, titola l'Economist, che sottolinea di fatto quella che ormai appare evidentemente una frattura nell'asse italo-franco-tedesco. Asse che ha sempre, regolato, dominato questi ultimi anni e decenni di politica europea. E lo stesso Economist dice è stato al centro del progetto europeo fin dall'inizio, nei primi anni 50, ma una combinazione della crisi dell'euro e anche il successo economico della Germania con la cancelliera Merkel e la debolezza contemporanea economica della Francia con François Hollande ha di fatto minato questa alleanza. Di questo tema parla anche il quotidiano tedesco Handelsblatt, quotidiano economico. L'amore è finito, nella crisi dell'euro i rapporti tra Francia e Germania si sono raffreddati, ha riassunto il quotidiano economico. Ora il braccio destro di Angela Merkel ha deciso di gettare benzina sul fuoco. Il ministro dell'economia Philipp Rösler ha preparato un rapporto in cui enumera le colpe economiche e politiche del paese vicino, cioè la Francia, come l'aumento del costo del lavoro e delle spese, la settimana lavorativa più breve dell'Unione Europea, famose 35 ore, e il peso della fiscalità e dell'assistenza sociale più elevato dell'Eurozona. Secondo Rösler, che avrebbe preparato un rapporto confidenziale poi filtrato ad Handelsblatt, la competitività della Francia è bassa, le industrie abbandonano il paese a causa delle imposte eccessive, eccetera, eccetera. Questi i temi economici che vanno avanti. In realtà andiamo anche oltre la Germania, andiamo a parlare di Spagna con El Mundo, il quotidiano El Mundo. Rajoy, primo ministro spagnolo, chiede pazienza. Non cambierà nulla né la strategia economica né la composizione del governo, scrive Il Mundo all'indomani del vertice tra Irlanda e Spagna. Irlanda è presidente di turno dell'Unione Europea. Secondo Il Mondo, la pazienza dovrebbe basarsi sulle aspettative che non possono esistere quando si rinuncia alle riforme strutturali indispensabili e si sceglie una continuità che ci sta portando al disastro. Continuiamo questo nostro pellegrinaggio, per riprendere il titolo di ABC sul viaggio di Enrico Letta. Il nostro pellegrinaggio invece tra i paesi periferici, i cosiddetti PICS. Dalla Spagna andiamo al Portogallo. Il governo aumenta l'età pensionabile, scrive il quotidiano portoghese Diario Economico. In base a un progetto che sarà discusso in Consiglio dei Ministri, in futuro l'età pensionabile in Portogallo non sarà più fissata a 65 anni, ma dipenderà dalla sostenibilità del sistema assistenziale. Il governo di Pedro Passos Coelho ha promesso alla Troica Europa BCE FMI di tagliare la spesa pubblica per 4,7 miliardi di euro tra il 2014 e il 2016 e, secondo le previsioni, dovrebbe adottare una serie di misure per portare il deficit al 5,5% del PIL quest'anno, al 4% nel 2014 e al 2,5% nel 2015. Ci sono anche licenziamenti di 20.000 impiegati pubblici in vista, questo in Portogallo. Lasciamo ora un po' il tema economico e concentriamoci anche su altri temi che sono stati al centro delle prime pagine o delle pagine interne sui quotidiani europei, sulla stampa europea in questa settimana. E cambiando tema andiamo in Gran Bretagna, perché pare, e riporta così il quotidiano, il principale quotidiano, il più famoso britannico, The Times, che il premier David Cameron potrebbe anticipare il famoso voto, il referendum dentro o fuori rispetto all'Unione Europea prima delle elezioni del 2017. Secondo The Times sarebbe la pressione, crescente pressione del partito euroscettico UKIP, come si direbbe, come si pronuncerebbe, che starebbe appunto premendo affinché questa decisione drastica possa venire anticipata. Se i deputati voteranno a favore del referendum, il governo dovrà impegnarsi a organizzare la controversa consultazione popolare sull'adesione del Regno Unito all'Unione Europea. Il primo ministro ha accennato al voto mentre nel paese si svolgono le elezioni locali. Sempre in tema economico, va detto che in Belgio, e siamo ai dati Eurostat, la disoccupazione giovanile è ancora in ascesa, lo scrive il quotidiano De Morgen. Il 22,4% dei giovani in Belgio minori 25 anni non ha un lavoro. Secondo De Morgan, la sorpresa è che l'aumento più sensibile riguarda le persone più qualificate e istruite. Ci ricorda qualcosa, ci ricorda molto l'Italia, e l'istruzione superiore non è più garanzia di lavoro. Nelle Fiandre l'aumento medio del tasso di disoccupazione è dell'8%, ma tra i laureati sale al 12,8%. Rimaniamo però nell'area cosiddetta Benelux, andiamo nei Paesi Bassi, perché c'è stato anche l'ascesa al trono questa settimana di Willem Alexander in Olanda, 46 anni, nuovo monarca, e il giornale The Volkskrant ha elencato i 7 motivi per festeggiare a cuor leggero nonostante le numerose critiche nei confronti della monarchia olandese. Tra i motivi enumerati ci sono la competenza del re, il fatto che dall'anno scorso ha evitato ogni coinvolgimento in politica, il fascino di un sovrano rispetto a quello di un semplice presidente. E bisogna dire che i fatti olandesi hanno poi influenzato anche il vicino Belgio, perché anche il Belgio fa un po' i conti con una possibile successione nella famiglia reale. Bisogna accoppiare i Paesi Bassi, si chiede il principale quotidiano belga Les Rois. Per i belgi l'incoronazione potrebbe avere l'aria di una prova generale, incoronazione in Olanda, perché da qualche mese si rincorrono le voci di un'abdicazione di re Alberto II in favore del figlio Filippo. Si dice che il re è stanco e il principe è vicino al trono, così il quotidiano belga. Andiamo, continuiamo questo nostro tour all'interno dei quotidiani europei e ci spostiamo in Irlanda del Nord. The Belfast Telegraph, il quotidiano appunto di Belfast, commenta il respingimento da parte dell'Assemblea nordirlandese sulla proposta di legge che avrebbe autorizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il matrimonio appunto omosessuale. E l'Irlanda del Nord, dice il quotidiano, è l'unico paese del Regno Unito dove non esiste il diritto al matrimonio per le coppie gay, e quindi ha un atteggiamento abbastanza critico su quello che appunto è avvenuto all'interno appunto dell'Assemblea nordirlandese. Spostiamoci ora dall'Europa occidentale all'Europa orientale, andiamo in Polonia, la Gazeta Wyborcza, il principale quotidiano polacco, che parla del licenziamento, pensate, licenziamento del ministro della giustizia Jarosław Gowin, dopo appena un anno e mezzo dal governo di Donald Tusk. Tusk l'ha licenziato dicendo: non ho tempo per giustificare ogni settimana quello che fa il ministro della giustizia, che è esponente tra l'altro della piattaforma civica, perché Gowin insomma si è lanciato una serie di dichiarazioni che hanno messo in imbarazzo il governo, l'ultima delle quali ha riguardato l'accusa che ha lanciato alle cliniche per la fecondazione in vitro di commerciare embrioni umani e averli addirittura venduti alla Germania. E Gowin sarà sostituito da Marek Biernacki, sempre di piattaforma civica, ex ministro degli interni. Infine rimaniamo a est per l'ultima segnalazione che vi facciamo dall'Ucraina, la fa però il quotidiano polacco, sempre Gazeta Wyborcza, e riporta appunto della decisione della Corte Europea dei Diritti Umani che ha stabilito che l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è stata arrestata illegalmente e per motivi politici. Un verdetto senza precedenti che lascia pochissimo margine di manovra a Kiev. Lasciare la Tymoshenko in carcere significherebbe compromettere la possibilità di firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea inizialmente previsto per il prossimo autunno a Vilnius. E con questa notizia si chiude qui anche la nostra rassegna stampa europea. Un buon weekend e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.